Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica. Lo sapevate che l'Italia è il paese leader mondiale nella produzione di bioplastiche? Le bioplastiche sono quelle plastiche fatte con elementi naturali, completamente biodegradabili e compostabili. Compostabili vuol dire che possono essere usati come concime o finire nel terreno e venire assorbiti. Io adesso ve lo dico in modo volgare, poi lo spiegheremo bene, daremo una definizione esatta anche nella scheda. Dunque, tra i primati della manifattura italiana c'è la produzione di bioplastiche. Queste bioplastiche biodegradabili e compostabili vengono usate per fare in primo luogo i sacchetti, che sono in bioplastiche a base di amido di mais, i sacchetti per la grande distribuzione, ma anche per fare piatti, bicchieri, posate, per il catering e per la ristorazione pubblica, che quindi si possono buttare via insieme ai residui di cibo, perché sono biodegradabili e compostabili come i residui di cibo. Il leader italiano e fra i leader mondiali nella produzione di queste cose è la Novamont. Ma la Novamont produce la materia prima, il Mater B, non produce i prodotti che sono realizzati da una filiera di aziende. Una di queste aziende si chiama Ecozema e Armido Marana, il suo amministratore delegato, è il nostro ospite di oggi. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli radioascoltatori. Allora, Ecozema, lo vedremo poi più avanti, è anche la storia di una profonda trasformazione strategica, perché era un'azienda storica che un po' tirava a campare nel settore delle mollette in polipropilene e adesso fa piatti, bicchieri, posate e quant'altro, tutte in bioplastiche che sono completamente biodegradabili e compostabili. Esattamente, sì. Ma voi avete dei numeri, dove siete voi? Noi siamo a nord di Vicenza, a Schio, nella zona industriale di Schio. Voi avete una capacità produttiva di 120.000 posate al giorno, 200.000 ragazzi mangiano in mensa scolastica con i vostri prodotti e realizzate 150 tonnellate ogni anno di posate? Sì, questi sono i numeri di questa linea di produzione. Ma qual è il vantaggio nel fatto che siano biodegradabili e compostabili? In fondo basterebbe buttarle via come plastica da riciclare. No, le posate in realtà non si riciclano, perché il riciclo della plastica è piuttosto complesso, in quanto avviene soltanto per i circuiti che pagano il contributo CONAI e sono considerati imballaggi. Questo avviene quando viene fatto per piatti e bicchieri, ma non per le posate. Le posate sono escluse dal contributo CONAI. Ma in realtà non bisogna guardare solo le posate, ma un po' tutta la famiglia, posate, piatti e bicchieri, che compongono poi quei prodotti monouso che vengono utilizzati o nelle grandi mense o durante gli eventi o per il picnic fuori porta. Così è tutto più semplice buttare via insieme ai residui di cibo. Per cui l'utilizzo di prodotti compostabili in abbinamento con il cibo consente di smaltire tutto insieme con il rifiuto organico e in 90 giorni diventa dell'ottimo compost. Ci interrompiamo un attimo per avvisi sul traffico, varie ed eventuali. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Armido Marana di Ecozema. Il tema di oggi sono le bioplastiche, soprattutto quello che con le bioplastiche si può fare e quello che fa la sua azienda, che è un'azienda storica trasformata completamente. Prima facevate le classiche mollette per le pinze e andava più o meno, e poi siete diventati invece uno dei maggiori produttori di attrezzature per il catering compostabile e riciclabile. Ci racconta un po' come è avvenuta questa trasformazione? La nostra è un'azienda che nasce a Schio agli inizi dell'Ottocento, quando nasce l'industria italiana. La nostra è un'azienda che si è messa, degli artigiani che facevano delle pinze per l'industria tessile, che qui era rigogliosa. Via via nel tempo si è trasformata producendo le pinze mollette in legno, perché era una falegnameria, per il consumo domestico ed esportava queste mollette in tutto il mondo. Negli anni 50 è stata una delle prime aziende al mondo a realizzare le mollette in plastica. Si usava all'inizio il polistirolo, perché il polipropilene è stato inventato poi nel 62, come sappiamo, da Giulio Natta, italiano, sì. Esattamente. Nel corso del tempo si sa come vanno queste cose, la Cina è diventata il più grosso produttore con costi decisamente inferiori, e per cui alla fine del secolo scorso l'azienda si è trovata di fronte a un bivio. Dovevamo cambiare strategie, dovevamo creare delle nuove situazioni che salvaguardassero il know-how, lo stampaggio di iniezione che avevamo acquisito negli ultimi 50 anni, e per cui abbiamo pensato a nuovi mercati, e per cui la sensibilità della proprietà e il luogo in cui siamo, i mercati della green economy che si stavano affacciando, e l'esigenza soprattutto che vedevamo nel mondo dei rifiuti, un mercato importantissimo, un mercato anche molto vasto, e aveva bisogno di prodotti che andassero a migliorare il ciclo integrato, cioè il riciclaggio dei rifiuti, e per cui abbiamo conosciuto il mondo delle bioplastiche, abbiamo conosciuto Novamont, con cui abbiamo sviluppato la... Perché Novamont vi dà la materia prima. Sì, ma perché... che cosa sono le bioplastiche? Che cos'è il Mater B? Che cosa significa tutto questo? Lo ascoltate adesso nella scheda. Mater B è il nome commerciale di un tipo di bioplastica, brevettato e commercializzato da Novamont, l'azienda chimica fondata a Novara da Katia Bastioli insieme ad altri ricercatori e manager provenienti dalla vecchia Montedison. Il Mater B, realizzato a partire da amido di mais, viene venduto in granuli ed è lavorabile in modo simile alle altre materie plastiche, anche per quanto riguarda la colorazione e la sterilizzazione. La sua invenzione e produzione è alla base del primato manifatturiero mondiale che l'Italia vanta nelle bioplastiche. Novamont produce solo la materia prima. Viene lavorata e trasformata in prodotti finiti da una filiera di aziende specializzate che poi li vendono. Il Mater B, a differenza di altre materie plastiche, è biodegradabile. Il suo processo di biodegradazione, svolto da microorganismi, genera acqua, anidride carbonica e metano. Il Mater B viene prodotto nelle tre fabbriche di Terni, Adria in provincia di Rovigo e Frosinone. Il Mater B, grazie alle sue caratteristiche della biodegradabilità e compostabilità e all'alto contenuto di materie prime rinnovabili, consente almeno tre vantaggi. Il primo è di ottimizzare la gestione dei rifiuti organici. Il secondo è di ridurre l'impatto ambientale. Il terzo è di contribuire allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione, consumo, smaltimento. Per esempio, i prodotti in Mater B per il packaging, che sono soprattutto gli shopper utilizzati da negozi e grande distribuzione, possono essere smaltiti nella raccolta differenziata dell'umido e avviati al riciclo organico negli impianti di compostaggio per diventare fertile compost. Lo stesso avviene per i teli destinati alla protezione delle colture agricole ed orticole, che si trasformano in fertile compost. Il Mater B ha conosciuto una forte diffusione a partire da quando, nel 2006, il governo Prodi ha disposto il divieto, nel giro di 3 anni, dell'uso di shopper in plastica, che erano uno dei più gravi e pericolosi fattori di inquinamento. Rieccoci in linea con Armido Marana di Ecozema, che è uno dei principali produttori di attrezzature e oggetti in bioplastiche e Mater B, che abbiamo appena spiegato nella scheda che cosa è. La storia di questa azienda è interessante non solo perché mostra che cosa significa per l'Italia il primato nelle bioplastiche, ma anche perché fa vedere che cosa può diventare un'azienda che si trasforma completamente, perché capisce che la mission è arrivata al termine e deve reinventarsi. Diceva Darwin che la selezione naturale non fa sopravvivere il più forte, ma quello che si adatta meglio e più rapidamente ai cambiamenti, e questo è valido anche per le imprese. Ci sono molte imprese che vanno male, che si piangono addosso e che non hanno la capacità di reinventarsi. Qui non è stato così. Comunque, per dare un dato, nel 2000, quando ancora facevano le pinze tradizionali, fatturavano 2 miliardi di euro, cioè un milione, scusate, fatturavano 2 miliardi di lire, cioè 1 milione di euro, adesso pensano di chiudere il 2017 con 5 milioni di euro e quindi praticamente in 17 anni il fatturato si è moltiplicato per 5. Quindi innovare, sapersi adattare ai cambiamenti, non stare mai seduti e non stare mai fermi. Dico bene, Marana? Sì, dice benissimo. Oltretutto, al di là dei soldi che sono importanti, ma poi alla fine noi crediamo che l'azienda debba creare valore. Il valore non si misura solo in soldi, ma si misura anche nelle persone che vi lavorano. Noi non abbiamo licenziato nessuno durante questo percorso di transizione. Abbiamo accompagnato alla pensione colleghi e dipendenti che hanno sviluppato da noi 40 anni di lavoro. Adesso l'età media della nostra realtà è sotto ai 30 anni e stiamo, perché abbiamo bisogno di questo tipo di energie per affrontare questi nuovi mercati. Siamo un'azienda impegnata nella responsabilità sociale, siamo diffusi nei social. Ecco, quindi non avete licenziato nessuno, ma immagino abbiate anche assunto. Certo, abbiamo assunto. E questo nonostante l'elevata automazione, per cui il luogo comune per cui l'automazione distrugge posti di lavoro è una solenne stupidaggine, non è un'opinione diversa o un argomento da prendere in considerazione, è una stupidaggine, come dire che le monete si sciolgono nella Coca-Cola. La forte automazione consente di innovare e quindi di assumere, quindi non è che l'automazione toglie lavoro all'operaio, l'automazione permette di assumere operai, vero? La forte automazione che abbiamo inserito nei nostri reparti produttivi ha chiaramente permesso di assumere persone, come si dice oggi, con skill diversi. Diciamo che oggi nell'industria l'operaio classico forse fa fatica a trovare una corretta collocazione. Oggi si cercano persone che abbiano delle competenze più sviluppate. Teniamo certo presente che questi robot, oltre ad alleviare la fatica fisica, permette di raggiungere standard qualitativi molto elevati. Ecco, voi avete un'isola completamente automatica per la produzione di posate che non vengono nemmeno mai toccate da un essere umano, quindi sono completamente sterili e sicure. Sì, noi dalla materia prima passiamo direttamente alla confezione che arriva al consumatore. E poi avete un forte know-how per la progettazione di stampi per le bioplastiche. Questo è interessante, abbiamo ancora un minuto, ce lo spieghi velocemente. La nostra forza è quella di sapere, di aver fatto e costruito la tecnologia per la trasformazione delle bioplastiche. Questa tecnologia che si concentra nello stampo, nel ciclo produttivo, in realtà è diversa da quella delle plastiche tradizionali. Noi abbiamo sviluppato questa cosa. Oggi noi siamo alla terza generazione di stampi e stiamo pensando ad altre applicazioni. Ma siccome voi siete presenti solo in Italia, questi prodotti avranno una circolazione mondiale, non pensate magari di diventare anche degli sviluppatori di tecnologie che poi possono acquistare altre aziende che hanno sede altrove? Noi stiamo aggredendo i mercati stranieri. Stiamo aprendo... Ma in proprio o con cessione di tecnologia in licenza? No, in questo momento lo stiamo facendo in proprio. Il mercato oggi cresce con dei trend che ci permette di gestire. Qualora ci fossero delle impennate, beh, siamo disponibili a valutare. Ecco, purtroppo dobbiamo chiudere. Saluto e ringrazio Armido Marana. Grazie a lei, arrivederci a tutti. E noi ci risentiamo sabato prossimo. Viva le fabbriche, viva l'industria, viva l'acciaio, viva i robot. Buona domenica.